Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto, siamo assistiti questa volta dal solo Valerio Rocchetti, il nostro regista, e saremo così condotti in questo cielo provvisorio da un ospite che ora presentiamo subito, dando anche da parte vostra il benvenuto a Pietro Folena. Buongiorno a tutte e a tutti. Pietro Folena, lo sapete, politico fino al 2005. Ed ora ha scelto così di operare, ci diceva a microfoni spenti, nell'ambito del mondo della cultura, una specie di deserto dei Tartari, quello del mondo culturale italiano in cui forse c'è bisogno di molto impegno. Così, con questa specie di orizzonte tracciato da un pensiero unico che ci ha portati tutti a salutare il ritorno di un pensiero alternativo come quello di Obama, come fosse un fatto che ci riguardasse da vicino, tanto non riusciamo a trovare su questo orizzonte tanta fame nostro. C'è di qualcosa di diverso rispetto a questo incredibile ingrigimento di tutta la prospettiva politico-culturale italiana, politico-culturale mediatica. Ma a volte capita così spesso di parlare con i nostri ospiti di argomenti che riguardano il cinema, la letteratura e quant'altro, poi alla fine dobbiamo pure concludere che poi se parliamo di cinema siamo sempre a Fellini, eccetera, eccetera, se parliamo di scrittori siamo sempre ai soliti, se parliamo di pittura ci ricordiamo sempre, ci fermiamo magari a Guttuso, ci fermiamo lì e continuiamo un po' a parlarci addosso quando usciamo fuori da ciò che è poi l'immanenza del quotidiano e tentiamo di tirare così qualche riga riassuntiva di quello che ci è accaduto attorno, dentro un mondo che invece è cambiato tanto. Sì, l'Italia in particolare è un paese molto bloccato, non direi neanche gerontocratico, perché secondo me facciamo un torto agli anziani, insomma, un paese in cui c'è una separazione tale delle cosiddette classi dirigenti di tutti gli ambiti politici, economici, culturali rispetto alla vita e ai cambiamenti della vita delle persone da rischiare di un deperimento senza ripresa. Ci sono pulsioni, ci sono tensioni, nella società ci sono delle cose veramente di straordinario interesse, ma non si intravede una, insomma, una via che possa scuotere, insomma, che possa scuotere questo grandissimo sonno. Però in realtà è così, è questione di questi giorni, abbiamo tutti quanti seguito più o meno, tanto per stare nell'ambito culturale, le vicende della Commissione di Vigilanza Rai, poi si è trovato questa soluzione laboriosissima e molto arzigogolata dal punto di vista amministrativo, però all'orizzonte appare il nome di un presidente ultraottantenne. Non mi sembra neanche un fantastico messaggio no, per il paese. No, a parte che anche dal punto di vista della procedura si può discutere molto. È un atto comunque politicamente giustificato, ma dal punto di vista del diritto di grande forzatura rispetto ai regolamenti, quello che è venuto in questi giorni. Ma appunto il messaggio è questo, il messaggio è che Giorgio Napolitano, Sergio Zavoli e tutti quelli che grandissime generazioni, grandissime generazioni, ma sono l'ultima cosa e l'unica cosa che questo paese sa esprimere per ritrovare una qualche ragione comune. E questa è la malattia italiana. Bene, a questo punto credo siamo pronti per sentire la tua riflessione partendo da dove? E partendo da La mauvaise réputation, che è una canzone di Georges Brassens. E c'è un ritornello di questa canzone del 53. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Non faccio torto a nessuno non seguendo le strade che portano a Roma, parafrasando tutti i cammini che portano a Roma. Questa massima, diciamo, mi rimbalza nella testa fin da piccolo, perché mia madre era francese, cristiana, cattolica, del dissenso, ha passato la sua vita, poi, sì, poi, insomma, tutti gli ultimi anni della sua vita li ha passati vicino all'abbazia di Saint-Benoît, sur Loire, dove, insomma, nel cuore della Francia. E però nel DNA, insomma, di questo strano cristianesimo esistenzialista francese c'era più di uno spazio per Brassens. A casa nostra, un po' perché mio padre era un intellettuale che viveva nel mondo dell'università, un po' perché lei veniva da questa formazione atipica e un po' eretica, la musica che si sentiva fino a una certa, fino a, insomma, quando abbiamo avuto poi 10 anni, 9-10 anni, era sostanzialmente Brassens, ma non il De André grandissimo che ha tradotto Brassens e quindi poi La bottiglia e poi La vita un po' sregolata, questa versione, diciamo, italiana, lo dico minimamente senza disprezzo, perché De André è stato uno dei più grandi poeti italiani. Ma Brassens era un'altra cosa, perché c'era in più, mentre in De André c'è una vena di tristezza, di nostalgia, di esistenzialismo tragico assolutamente prevalente, in Brassens tutto questo è vissuto con una cifra di sarcasmo e di ironia e di, diciamo, di giocare sempre sul filo, che a me ha segnato, insomma, perché essere Bastian contrario, essere un po' diavolo, essere sempre contro, essere anticonformista, insomma, no? Pensare con la propria testa, no? Poi gli anni possono passare, sono venute tantissime altre cose. E fra l'altro il paradosso è che sono arrivato a Roma, io che non stavo a Roma, no? Cioè, quindi io che non volevo seguire i cammini che portano a Roma, poi io ho smentito nel concreto, insomma, questa specie di grande così polemica col potere, insomma, questo rifiuto del potere, che non è volontà di distruggere il potere nebbio, ma è di sentirtene altro. Io confesso che, avendo avuto tanto potere nella mia vita, perché sono stato coordinatore della segreteria dei DS, insomma, numero due del principale partito del centro-sinistra italiano per tanti anni, in Parlamento, conosciuto in televisione, alla radio, eccetera, eccetera, tuttavia mi sono sempre sentito un conflitto profondissimo con questa dimensione del potere. In qualche modo oggi, a 50 anni, mi sento che sono stato, per forza delle cose, non per mia scelta, estromesso, insomma, dalla dimensione del potere. Mi sento molto di recuperare e di riprendere, insomma, questa vecchia anima della mauvaise réputation, della cattiva reputazione, insomma, che fa dire che insomma, il piccolo cammino che intendo seguire è diverso da quello che la brava gente pretende che tutti seguano, insomma, per cui se non segui per forza il cammino della brava gente, oggi diremo dei sondaggi, no? Cioè, i sondaggi dicono che allora sei un po' out, insomma. Però questo è un problema della nostra generazione, perché diciamo, è notizia nei nostri giorni che il nuovo presidente Obama, tra le prime decisioni, ha statuito di rivedere i metodi per sondare l'opinione pubblica, perché intende, per così dire, fare in modo che l'espressione continua a volontà dei cittadini sia rappresentata anche a livello politico. Un po' l'esperimento teorizzato da Zapatero in Spagna con la democrazia ciudadana, la democrazia cittadina. E invece, diciamo, in Italia sono 20 anni che abbiamo delle istituzioni tutto sommato create da noi, che tuttavia non ci rappresentano, ma a qualunque livello, perché quanti cattolici di questo paese non si sono sentiti rappresentati, per esempio, da chi ha diretto la conferenza episcopale negli ultimi 15 anni, c'è spesso e volentieri lo scandalo del mondo sportivo, quanti sportivi sono sentiti rappresentati da quel sistema di presidenti che oggi si sta sciogliendo più o meno così in tribunale in modo più o meno chiaro e diretto. Cioè, sembra quasi che quando dobbiamo uscire da una certa forma di individualismo per mettere dentro una rappresentazione della nostra cittadinanza, noi italiani siamo bloccati. Sì, noi abbiamo avuto anche delle incredibili, il paradosso è che abbiamo avuto delle incredibili esperienze di partecipazione, perché sul fronte cattolico sicuramente, insomma, la stagione conciliare ha aperto in Italia una stagione di partecipazione senza precedenti, insomma. A casa mia non c'era la televisione perché mio padre la rifiutava per ragioni culturali, ideologiche, ma lui era fiorentino, stavamo a Padova. E nel 66 c'è stata l'alluvione di Firenze e lui ha deciso di comprare la televisione per vedere la sua città martoriata da queste, però per vedere poi i volontari cattolici e laici, che cioè, fu una delle prime grandissime esperienze di rottura, cioè si ruppero gli argini dell'Arno, ma si ruppero anche gli argini, diciamo, delle vecchie incrostazioni. E così è stato poi, per esempio, nei consigli di quartiere, nei consigli di scuola, nella partecipazione negli organi collegiali, c'è stata effettivamente una partecipazione straordinaria. La vera domanda è come mai questo portato di partecipazione per alcuni versi superiore a quello di tutti gli altri paesi, perché ancora adesso alle elezioni politiche in Italia si vota con tassi di partecipazione più elevati, ma come mai un paese che ha avuto forme originali di invenzione, la chiameremo di democrazia partecipativa. È come il volontariato, 25%. Il volontariato, la dimensione del volontariato. Miracolo italiano. Miracolo italiano, i saggi di Cotturri, tutto quello che è stato scritto e analizzato. Cioè, c'è stato scienze della politica che sono state, della società, che sono state elaborate e costruite partendo da queste esperienze italiane. E tuttavia, in Italia, il mondo politico istituzionale, ma si può dire anche imprenditoriale, economico, ecclesiastico, associativo, dicevi sportivo, eccetera, eccetera, almeno si può dire da un ventennio a questa parte, da metà degli anni Ottanta, ha fatto sua una cultura del giacobinismo, della separazione, che prima era forza e comando e oggi è diventata patetica debolezza. Pietro Follena, seguendo Georges Brassens, non farò torto a nessuno se mi rifiuto di seguire il cammino che porta a Roma. Lui l'ha detto in francese, io lo dico in italiano. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E di Pietro Follena, la nostra guida questa settimana. Pietro, a dove ripartiamo per questo nostro secondo percorso? Odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti. Gramsci nel 1917, nel numero unico della Città Futura, ha scritto questo articolo travolgente, passionale, anche sbagliato in alcune scelte lessicali. La parola odiare oggi va in spunta, credo, dal gergo politico-culturale, però in questo rifiuto radicale dell'indifferenza c'è una scelta di vita è il fondamento, perché se uno comincia a non sentire più il mondo e a non capire più cosa succede attorno e avere indifferenza, alla fine è come una pianta che non ha più acqua, come un pane che non ha lievito, insomma. Io credo che non è solo la capacità di indignazione, insomma, no? È la consapevolezza, ancora con Gramsci, che vivere vuol dire essere partigiani. E questa partigianeria in questi anni, forse per rispondere meglio alla domanda di prima, in Italia è mancata completamente. C'è stata una faziosità di potere, di gruppi di potere, priva di valori. Invece la partigianeria richiede capacità di sacrificio, di indignazione, di lavoro collettivo, partendo dai propri convincimenti. Ma nel momento in cui in Italia, in quella bellissima stagione dei diritti per tutti, aumentavano i livelli di partecipazione, assumendo anche forme molto originali e molto creative, c'è Dominique Lapierre che va dicendo in giro per il mondo che quando si occupa di qualche progetto umanitario in India come in Sudafrica, trova sempre un'alta percentuale di medici e volontari italiani che sono sparsi nel mondo proprio con l'Italia è stato anche il paese che per primo ha statuito sulla legge sugli aiuti già intorno fine degli anni 60. Poi invece quando questa stagione sembrava giungere a maturazione sono finiti i partiti. Cioè in realtà anche rivedendo il tuo curriculum e quello di altri personaggi che hanno avuto più o meno la tua esperienza, ad un certo punto è venuta a mancare la struttura che prendeva dei giovani e li metteva magari quasi con forza, perché vedo che nell'88 vieni mandato a occuparti del PC in Sicilia, qualche tempo prima vi era stato ucciso un tuo predecessore, la Torre, quindi trentenne buttato così nell'acqua. Ma era la grande forza di quei partiti. Il Partito Comunista Italiano aveva in qualche modo una sua tipicità anche rispetto agli altri partiti, insomma, quindi nella scuola di formazione dei dirigenti più importanti, l'esperienza, farsi le ossa su un territorio diverso dal proprio. Guarda caso negli Stati Uniti è così che nascono i grandi leader, o anche in Gran Bretagna. Non sei forte perché rappresenti il territorio in cui sei nato, ma sei forte perché sei capace di interpretare, sentire e rappresentare un altro territorio. Beh, una palestra incredibile, non era solo frattocchie, non è che si imparava l'ABC di marxismo-leninismo, che fra l'altro non c'era più, che era stato, diciamo, ma era invece questa cultura della realtà, e trovarsi a 30 anni all'improvviso costretto ad avere la scorta, negli anni amico di Giovanni Falcone, negli anni in cui si progettava da parte della mafia la strage e l'uccisione di Falcone, di Francesca Morville e poi di Borsellino, beh, sono state esperienze non politiche, come si può chiamare un'esperienza così politica, solo politica o partitica? Straordinarie esperienze umane e civili. Io sarò sempre grato al Partito Comunista, ma diciamo in generale a quel tipo di idee della politica, per avermi regalato la possibilità di fare esperienze anche difficilissime, in cui ho anche fatto degli errori importanti. Ma si sbaglia molto di più quando non si fa niente, si rimane chiusi dentro la curia romana, in una cuccia al caldo, che non quando si è nel cuore della realtà. E questo bisognerebbe ritrovarlo, insomma. C'è una dimensione collettiva a cui sacrificare, non dico le ambizioni personali, perché le avevamo tutte le ambizioni. Ma te la posso dire così, cruda, come mi viene in mente? E come si fa che in un contesto così, diciamo così, fortemente impegnativo, poi ad un certo punto succede quello che succede a Gaza in Palestina, e l'unico che ha il coraggio di andare controcorrente è solo Massimo D'Alema, perché ha la faccia piuttosto degli altri, o perché c'è un grande conformismo, c'è un grandissimo conformismo in Italia, quello che dicevo prima a proposito di Brassens. Dire la verità, dire le cose scomode, e purtroppo lui è stato l'unico politico che ha, perché viene, è quella la scuola, è quella l'esperienza. Oggi invece il calcolo estremo del sondaggio, oppure della convenienza politica, oppure ti spinge a questa omologazione. Nel caso di Gaza, devo dire, insomma, davvero, il mondo politico italiano, salvo appunto quella eccezione e pochissime altre, e le importantissime prese di posizione della Chiesa, ma il mondo politico italiano ha dato pessima prova di sé. Perché questa esperienza, tanto per parafrasare un altro francese che magari non ti sta neanche simpatico, visto che era Charles de Gaulle, après vous le déluge, dopo di voi il diluvio, cioè non c'è stato questa trasmissione comunque di un'esperienza generazionale che potevate, dovevate, era giusto, voi poteste consegnare. Infatti mia nonna era gollista e c'era in Francia un gollismo di sinistra, il gollismo aveva due anime, e non si può capire Mitterrand, il successo socialista tanti anni dopo, se non si capisce che Mitterrand stesso ha fatto vivere... Fu gollista, ha fatto vivere qualcosa che viene dal gollismo. Perché non c'è stata questa capacità? C'è stata una cesura, una rottura, una... Beh, insomma, questa è la responsabilità grave che pesa sulla generazione, insomma, sono, non per autocitarmi, che io in un libro abbastanza fortunato, che ho avuto 5 edizioni, si chiama I ragazzi di Berlinguer, ho chiamato I ragazzi di Berlinguer, Perché noi ragazzi di Berlinguer, cioè quella generazione che divenne comunista non quando Berlinguer era segretario, ma perché Enrico Berlinguer era segretario, altrimenti non sarebbe diventato comunista, perché nelle scuole l'offerta politica di comunismo era enorme, c'era lotta continua, vanguardia operaia, potere operaio, gli estremisti, chi voleva diventare, fare le brigate rosse. Poi c'era un'altra cosa molto strana, molto moderata per alcuni. E anche abbastanza malvista in quei licei. Eccetera. Perché però non siamo? E questa è veramente una... Perché forse bisogna ricordare che non solo quelli CL prendevano le catenate, ma anche quelli... Ma io ti posso dire FGC. Di più, che io a Padova, il famoso servizio d'ordine della FGC proteggeva le uscite dei giovani democristiani e di CL agli albori, che non potevano attaccare i manifesti perché gli venivano strappati dagli estremisti. Quindi noi avevamo perfino una solidarietà, diciamo, in quegli anni lì, per tutelare un minimo di agibilità politica. E, io credo che fondamentalmente si sia persa la Trebisonda nell'89. Cioè l'89 è stato, insomma, si è buscato il ponente per il Levante, insomma, in qualche modo si è scambiato, si sono scambiati i punti cardinali. Cioè, è vero, è crollato il muro, è finito il comunismo, ma come Papa Wojtyla disse proprio ora, che andare oltre la soglia della speranza, proprio ora che è morto il comunismo, noi dobbiamo farci carico delle verità interne, delle ansie di libertà che c'erano dentro quel movimento di liberazione umana, e oggi lo dicono tanti altri. E invece la sinistra ha perduto se stessa e ha interpretato quella vittoria come la vittoria del modello di mercato, del modello prevalente, del modello dominante. È stata una corsa in 15 anni all'omologazione, a chi era più simile alle cose che si erano all'interno della Pietro, società. Un'ultima domanda con una risposta molto secca: questa fila all'entrata del supermercato prima o poi cesserà oppure dovremo ancora aspettare? Ma io penso che siamo vicinissimi alla fine, nel senso che ora si impone un grandissimo coraggio, e penso che tra le europee, prima, dopo le europee, si possono mettere le basi di qualcosa di nuovo. Pietro Follena, la nostra guida questa settimana, Valerio Rocchetti, il nostro regista, Filippo Di Giacomo, il solito conduttore, così si dice, del vostro programma. Grazie per averci seguito ancora una volta, e l'appuntamento la settimana prossima.